Sono le 7:30 minuti primi. Problemi? If you have a problem, se ce li avete tranquilli, nessuno vi può aiutare. Potreste trovare noi di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Andiamo a salutare Superlvo in strada da Milano verso Genova. Vorrebbe le frequenze liguri. Non me le ricordo, Superlvo. Adesso me le scrivono gli amici liguri, poi te le dico. Salutiamo anche Lapo? No, ragazzi, questo è fortissimo. Lapo fa parte del gruppo d'ascolto pulmisti. Ce n'è tanti all'ascolto, sia pulmisti che tassisti. Salutiamo tutti e due i gruppi d'ascolto. Oggi sciopero, scrive. Ho già programmato la scritta PBR sul cartello del mio bus. Vi manderò la foto, ho già diffuso la voce, voteremo Pane, Burro e Rock'n'Roll anche alle elezioni. Pane, Burro e Rock'n'Roll for President. Là puoi iniziare a fare la foto del pullman con sopra la scritta Pane, Burro e Rock'n'Roll, che regalerebbe grosse soddisfazioni. Saluti anche a Duke, braccio proibito, che è della legge. Qui il corto richiede strombazzata per figlia Arianna, che stamane non riesce a svegliarsi, ma... Ah sì, richiedetecelo. Un saluto anche a Pierpaola, la professoressa molto rock. Ci ringrazia per il brano. Ora riuscirò ad andare a scuola. Ragazzi, è un piacere mettervi i brani belli. E visto che tra pochissimo getteremo la vostra stima nei nostri confronti in un tombino con i Led Zeppelin con il kazoo, chiederei l'aiuto di George Harrison, così per instaurare un clima di pace e d'amore tra noi e voi, e tra tutti voi e noi e lui. My sweet Lord. Yeah. Peace, love and music. Sitar libero per tutti. Bye. saluto anche agli amici arancioni all'ascolto. Biscottini al cocco per tutti. My Sweet Lord, George Harrison. Allora, per l'amico in trasferta a Genova, smettetela di scrivermi le frequenze perché sennò ci impallate tutto. 87,55 oppure 87,75. Ringrazio Stefano, Mauri, Luca, Grazia, questi quelli firmati che segnalavano le frequenze genovesi, le frequenze liguri per l'amico in trasferta. Allora, occupiamoci di le Zeppelin con il Kazoo. Se già conoscete questa trasmissione sapete che abbiamo una passione sfrenata per la nicchia, per tutto ciò che è di nicchia. Il Kazoo è stato eletto strumento di nicchia di Pane, Burro e Rock and Roll. Conoscete anche la nostra passione per gli dei del metallo, gli dei del rock, Led Zeppelin. Ah. Non che io abbia la coda di paglia, ma cerco sempre di presentarvi la rubrica nella maniera più dolce possibile. Immagina Spadino, l'amico o l'amica che si sta svegliando proprio adesso, accende e sente Stairway to Heaven col Kazoo. Secondo me è un viaggio da spararsi, assolutamente. Vi ricordo il numero di SMS, nel caso voi dopo sentiate l'irrefrenabile desiderio di commentarla, fate pure. 335-100-7777. Secondo noi è roba avanti, poi vedete voi, può piacere o non piacere. Gli amici della seconda ora, quando gliel'ho proposta settimana scorsa, era stato giovedì o venerdì, in molti erano preoccupati che la versione fosse fedele all'originale, quindi durasse 12 minuti. No, è una edit version, quindi state tranquilli. Mando in onda quello che è accaduto giovedì in diretta. Io, Freak, Isaac Rizzi, Spadino no perché è stonato, con tre Kazoo abbiamo fatto Stairway to Heaven. Vogliate gradire, Pane, Burro e Rock and Roll, le Zeppelin col Kazoo. 1, 2, 3, 4... Mm-hmm. Struggente, ho solo un aggettivo. Struggente. L'abbiamo fatta con impegno, sì, si sentiva. Un aggettivo che mi esce prorompente. Anzi, ho una poesia. Un aggettivo mi esce prorompente. Struggente. Grazie, maestro. Complimenti, grazie, Isaac. Complimenti. Isaac Rizzi, il maestro Ariele. Da solo l'ha sentito. Da solo. Che ma che brividi! Pare burrera che re! Pare burrera che re! Mazza che figata sto programma, raga! Zeppelin in versione originale con i Migrant Song. Ragazzi, siete molto molto più gentili nella prima ora che non nella seconda, eh? Solo complimenti abbiamo ricevuto per la meravigliosa Starway to Heaven col Kazoo. Però sappiamo qui a Pane, Burro e Rock and Roll che la carriera da professionisti col Kazoo non certamente ci porterà a un futuro di ricchezze e di gloria, e quindi affidiamo le nostre speranze nelle mani di Carla. Buongiorno Carla. Buongiorno. Come le sembrava la canzone col Kazoo? Beh, abbastanza bella. Abbastanza, beh. È un po'. Ce ne sono di meglio. Sì, ma perché è uno strumento un po' rude il Kazoo. Ah, però ecco. Così. Sì, va bene. Ricordiamo che Carla è la nostra esperta di lotto. Abbiamo oggi cosa facciamo? Li cambiamo o sono sempre gli stessi? No, conviene cambiarli, se no perdiamo. Hai ragione. Cosa sarebbe la te? Cioè oggi è l'ultimo, però, o forse anche giovedì? No. Tre volte si devono giocare. Allora, ricomincia la settimana. Quindi da martedì prossimo li diamo. Se stasera. Buona. Li cambiamo giovedì. Vediamo se gli appunti che ho sono sempre giusti. Provo a ridirli io, per certo. Dimostrare che seguo il lotto. Allora, certo. Ambi 18-36. Sì. Perfetto. 18-72. Ok. Tutte nazionali 1 euro. Sì. Poi Cagliari-Genova 18. Sì. Ma di questi è uscito qualcosa, Carlo, o niente? No. Niente? No, sono usciti tutti sparsi. Tutti sparsi, ma. E allora io direi, li abbiamo giocati tre volte, andiamo avanti. Se la facciamo comunque la volta là, abbiamo perso. Esatto, no, teniamo duro allora. Ma gli altri, quelli che giochi tu, sono usciti o no? No, sei in un giro. Sei in un giro un po' così. Sì. Vabbè, dai, l'importante è tenere duro, prima o poi ce la facciamo. Certo. Va bene, allora va bene. Ci risentiamo magari domani a vedere se siamo diventati ricchi, se no giovedì. Se siamo diventati ricchi, cioè se abbiamo vinto qualcosa, esatto, ricambiamo. Altrimenti giovedì andiamo avanti ancora. Andiamo avanti. Carla, buona giornata, grazie. Altrettanto a voi. Ciao. Ciao. Prima o poi ce la facciamo, io lo so. Ah, Carla, escono perché non devono uscire anche a noi. Walk on the Wild Side, Mr. Lou Reed. Questa è Rock FM. Questa è la colazione in diretta con l'Ariele Spadino Fricca. Pane, burro, rock and roll. Non cercare, di meglio non trovi. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Walk on the wild side. Ma non posso non dare un occhio ai commenti che sono arrivati a Starway to Heaven col Kazoo. Che siete molto più gentili di quelli della seconda ora, voi della prima, cari radioascoltatori e radioascoltatrici frazionate. Io l'ho sempre detto che preferisco di più voi a quegli altri zozzoni della seconda ora della diretta. Provo a muzzo a vedere. Allora, Vitto da Genova, non c'è niente da fare, siete meglio delle altre. Le altre radio hanno programmi che puntano a volgarità e parolacce per fare i simpatici, voi siete un programma fine. Grazie Vitto. Chiaro che con la chitarra è meglio, in riferimento a Starway to Heaven, ma comunque andrebbe pubblicata Starway to Heaven col Kazoo, fareste soldi. Matte da Firenze, sì. Mi è venuta la pelle d'oca, chissà come mai, Romina Viama, anche noi chiamiamo. Oscar, erano anni che cercavo un pusher che vendeva le cose che usate voi. Dopo ti giriamo il numero, Oscar. Amico da Firenze, clap, clap, clap, bravissimi. Mal di pancia, flatulenza, meteorismo, una razione di Led Zeppelin con Kazoo e passa tutto, oppure muori. Mio Dio, abbiamo visto la luce, siete troppo grandi, Loredana e Patrizia. Ancora più rock dell'originale, supera anche Taurus degli Spirit. Un saluto anche a questi altri grandi, qui addirittura stiamo pogando. Semplicemente grandi, scrive qualcun altro. Joe, ci ho messo circa un anno per farla decentemente con la chitarra, una fatica bestia, ma anche quel casù è bella lo stesso. Un po' più facile, ciao Joe. Non vi uccido perché siete fuori, Renzo. Semplicemente fantastici, Marzia da Pisa. Guarda che siete teneri, eh. Va bene, guarda Frick come se la gongola a sentire i complimenti. Ross di Imola, siete spettacolari. Un abbraccio. Bravi, fa veramente cagare. È oscena, io vi adorerò a vita. Mi fai, Ariele, una strombazzata per mate in inglese che non ho studiato una cippa? Lore, stai preciso, in una classica botte di ferro. È un'emozione sentire una così strabiliante esibizione, i brividi sulla mia pelle ringraziano. Patentato 978. Ci manca solo uno scacciapensieri, Amn. Ci stiamo lavorando con lo scacciapensieri, ragazzi. Siete tanto avanti col kazoo che non riesco nemmeno più a vedervi. Ragazzi, siete veramente gentili. Prendetevi tutto, ma non Stairway to Heaven. Forza Nicchia. Muratore rock della Versilia. Un saluto anche a te, insomma. Vi ringrazio, mi ero perso con altri messaggi. Ringraziamo sentitamente da Pane, Burro e Rock and Roll. Anche noi apprezziamo i Led Zeppelin col kazoo. Adesso sentite qua che vi faccio sciacquare la bocca. Rolling Stones. Yeah. Wow. Wow. Così sì che ci si risveglia. Anche questa dovremmo farla col kazoo. Ho troppe percussioni sopra. Sympathy for the Devil. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg. When I saw it was a time for change. Killed the Tsar and its ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guessed my.